sentire nudo, senza scudo. Fa uscire dall'interno tutto quello che nascondo, guardando questo mondo impresso sullo sfondo. Guardare il futuro come un mondo nuovo.